Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ci si interroga ancora, anche se non diciamo con l'apprensione della settimana scorsa, che abbiamo raccontato la settimana scorsa, ma dicevo ci si interroga ancora sulla tenuta della crescita economica in quelli che erano considerati i paesi traino della crescita economica, quindi i BRICS famosi, Brasile, Russia, India e Cina. Perché lo dico? Perché oggi è arrivato un dato molto cauto, per non dire negativo, sulla previsione di crescita sulla Cina e anche sull'India, mentre il Brasile viene dato per quest'anno in recessione. Non è di questo, in senso stretto, che ci occuperemo oggi, perché nonostante ancora vengono prodotte appunto analisi e stime, riviste soprattutto analisi e stime, oggi la giornata si connota per temi soprattutto di casa nostra, per quello che riguarda la cronaca economico-finanziaria. Intanto l'ENI, oddio, dire che l'ENI è un tema di casa nostra è eccessivo. Oggi su molti giornali trovate la notizia che l'ENI ha annunciato di aver scoperto un super giant, come si chiama in gergo, e quindi un mega giacimento di gas al largo delle coste egiziane. Non è un caso se ENI e Saipem sono i due titoli, quindi leggo la notizia anche l'andamento di borsa, che guadagnano di più: lo 0,90% ENI, lo 0,50% Saipem, in una giornata in cui invece la borsa mediamente cede lo 0,72%. Parigi fa peggio, meno 1, Francoforte meno 1, Londra più 0,90, e oggi di nuovo penalizzati i titoli del lusso. E qui ci ricolleghiamo invece alla notizia sulle prospettive di crescita di Cina e India: Tod's meno 1,70, Ferragamo meno 2,32%. Ancora, per quello che riguarda i titoli oggi penalizzati, alcuni bancari, a partire da UbiBanca meno 2,20, Monte dei Paschi meno 2,2, poi Telecom perde l'1,90%, Fiat Chrysler l'1,80%, la Popolare Emilia Romagna pure cede l'1,80%. Euro invece stabilmente a quota 1,12. Dicevo, ci occuperemo da un lato dell'annuncio fatto dall'ENI che potrebbe portare, quando a regime, come scoperta, a un'indipendenza energetica dell'Egitto, che, come non sfugge a nessuno, in questo momento ha anche una fortissima implicazione di carattere geopolitico, oltre che di carattere solo economico. Ma sarà anche l'occasione per fare il punto, perché insomma l'ENI da sempre, dai tempi di Mattei, ha una storica collaborazione con l'Egitto. L'intesa per esplorare il giacimento Zohr fu siglata nel gennaio del 2014. Pensate che ha un potenziale di risorse fino a 850 miliardi di metri cubi di gas. È comunque la più grande scoperta di gas mai effettuata in Egitto e nel Mar Mediterraneo. Perforata a 4.131 metri di profondità, e qui c'è, diciamo, la medaglia, non solo perché l'ENI è un gruppo italiano, ma la tecnologia utilizzata, va bene infatti anche Saipem oggi, è appunto italiana. L'investimento complessivo di ENI dovrebbe toccare i 7 miliardi di dollari. Di questo parleremo tra poco. L'altra notizia di cui ci occuperemo, da un lato la notizia è arrivata che il programma venerdì era già terminato nella sua versione estiva del 18, mi riferisco alla Banca Popolare di Vicenza, che ha dovuto, dopo anche un insieme di ispezioni degli ispettori della Banca Centrale Europea, ha intanto comunicato i dati, questo non come conseguenza delle ispezioni. I primi sei mesi dell'anno si sono chiusi con una perdita di 1 miliardo e 53 milioni di euro. Questo però è l'effetto della pulizia totale dei conti imposta alla Popolare di Vicenza dalla Banca Centrale Europea, anche alla luce di alcune irregolarità emerse. Una su tutte, quella più clamorosa anche per le dimensioni, che 975 milioni di euro sarebbero stati dati, concessi ai clienti della banca per acquistare titoli della banca stessa. E quindi la banca è stata obbligata a iscrivere 611 milioni di euro come riserva indisponibile e accantonarne 340 milioni come fondi per rischi e oneri. Ecco perché poi dovrà aumentare di nuovo il capitale, è la terza volta in 3 anni, per 1,5 miliardi di euro. Devo dire che ha diffuso i dati anche Veneto Banca, anche qui la perdita di 213 milioni di euro dopo aver registrato quasi 300 milioni di rettifiche sui crediti, quindi su crediti che evidentemente diventano non più esigibili, e una svalutazione di 50 milioni di euro sugli avviamenti. Ne parleremo più avanti, così come parleremo del dato di oggi, forse il dato più positivo di questa giornata, si riferisce ai consumi. Vanno presi sempre con le pinze i dati sui consumi, perché sappiamo che sono medie quanto mai di trirusse, quindi... Però il dato di giugno vede le vendite al dettaglio crescere dell'1,7% rispetto al giugno di un anno fa. È la crescita tendenziale maggiore da un anno. Sembrerebbe segnalare, uso il condizionale, un risveglio, non un recupero, ma un risveglio dei consumi degli italiani. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. E partiamo proprio dalle notizie che sono arrivate sulle cosiddette economie emergenti o le grandi economie più che emergenti trainanti. Allora, domani la Cina diffonderà gli indici sull'andamento dell'attività manifatturiera, il famoso indice PMI. Però oggi la banca d'affari Goldman Sachs ha rivisto le sue previsioni sulla crescita del PIL cinese, abbassando le stime per l'anno prossimo dal 6,7 al 6,4%, per il 2017 dal 6,5 al 6% e per il 2018 dal 6,2 al 5,8%. Se avesse ragione Goldman Sachs, questo significherebbe che la frenata e il rallentamento nella crescita cinese non è un elemento, diciamo, non sarebbe un elemento ascrivibile solo al 2015 o al 2016, ma proprio una tendenza per i prossimi anni. E Goldman Sachs giustifica, spiega questa sua stima dicendo che la svalutazione del yuan, la valuta cinese, ha accelerato l'uscita di capitali, mentre il settore industriale è sotto pressione per il rallentamento dell'export, ma anche il rallentamento degli investimenti governativi in infrastrutture e poi per un irrigidirsi delle condizioni di credito. Notizia a mio avviso altrettanto importante invece riguarda l'India. Anche qui siamo di fronte sempre a una crescita molto forte, però il PIL indiano nei primi 3 mesi da aprile a giugno è salito, quindi il secondo trimestre, del 7% contro il 7,5% del trimestre precedente. Molti analisti si attendevano una crescita al 7,4%, quindi c'è un effetto rallentamento anche in India, ma soprattutto sono molto pessimisti gli economisti brasiliani, quindi dei BRIC. Insomma, se leviamo la Russia, l'abbiamo detto già la settimana scorsa, che dopo l'embargo e le sanzioni è uscita dal gioco, e dei BRIC restavano Brasile, India, Cina e chi voleva dire BRICS diceva anche Sudafrica. Però insomma, la Cina ha una crescita rivista a ribasso, l'India ha una crescita rivista a ribasso e il Brasile va in recessione. Gli economisti brasiliani infatti sono pessimisti, le previsioni per l'anno in corso sono di un ulteriore rallentamento del PIL del 2,2%. Vediamo l'Europa oggi, al di là del tema enorme, grossissimo, di cui vi hanno raccontato i nostri GR, e mi riferisco alle decisioni europee in tema di migranti e la, così, non dico provocazione, ma la proposta britannica di bloccare anche all'interno dell'Europa gli spostamenti. Detto questo, però, oggi si è parlato anche di Atene. Perché? Perché Angela Merkel ha detto, si è definita ottimista sul fatto che si possa arrivare a una regolamentazione che rispecchi anche le richieste del Fondo Monetario Internazionale per quello che riguarda Atene, dicendosi convinta che Atene rispetterà i suoi impegni. Poi, sul fronte delle critiche ricevute in Italia, dove è stata fatta una domanda, il dibattito pubblico ha assunto accenti antitedeschi a proposito delle trattative sul salvataggio di Atene, per quello che riguarda questo programma non confermiamo che non erano antitedeschi ma contro la politica perseguita dalla Germania, e restiamo di questa idea. Angela Merkel ha risposto: guardate che Berlino non era isolata sulla Grecia, è normale che ci sia un atteggiamento critico fra diversi paesi dell'Unione Europea, anche in Germania c'è un dibattito, ma noi non eravamo isolati. E poi ha aggiunto: no, senza gli alleati non saremmo nulla. Questo a chi le ha chiesto se la Germania si ritenga una potenza mondiale. E ancora poi ha commentato invece il portavoce della Commissione Europea, Schinas, ha detto che la continuità per quello che riguarda il governo, il futuro governo greco dopo le elezioni, la continuità in alcuni ministeri chiave come quello delle finanze sarà un buon segnale per l'attuazione del programma concordato. Ultima notizia sull'Europa riguarda l'inflazione allo 0,2% nel mese di agosto rispetto a luglio per quello che riguarda l'Europa 19. In Italia ferma ad agosto rispetto a luglio, più 0,2% su un anno prima. L'Istat fa sapere che per il 2015 l'inflazione già acquisita è dello 0,2%. Tra l'altro, se si levano dal calcolo dell'inflazione i prodotti alimentari e l'energia, l'inflazione di fondo scende allo 0,7% contro lo 0,8% di luglio. Ma il dato buono, ripeto, è quello che riguarda le vendite al dettaglio, più 1,7% rispetto a un anno prima. Adesso parliamo della scoperta annunciata da Leni, tra l'altro ha avuto una ripercussione in borsa anche perché lo stesso numero uno dell'Eni, Descalzi, ha detto che credo Descalzi che la maxi scoperta di gas in Egitto impatterà positivamente sul dividendo dell'Eni, che in questo momento guadagna l'1,1%. Ma dicevo, al doppio colpo dell'Eni da una parte e dell'Enel dall'altra, perché Enel Green Power si è aggiudicata il diritto di sottoscrivere contratti ventennali di vendita di energia per un totale di 553 megawatt relative ai tre nuovi progetti fotovoltaici. Praticamente Enel Green Power diventerà il principale player nel settore solare in tutto il Brasile, sia in termini di potenza installata che di portafoglio di progetti. Dicevo, al doppio colpo di Eni e di Enel sono dedicati i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, che tornano con l'inizio del palinsesto normale, non estivo, della radio, e che ricordo sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Alberto Arioli. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Arioli. Ci sono due buone notizie per l'economia italiana. I campioni del Made in Italy, Eni ed Enel, hanno segnato un doppio colpo importante su scala globale. L'Eni ha scoperto un giacimento di gas di rilevanza mondiale nel Mar Mediterraneo al largo della costa egiziana. La scoperta, come spiega l'Eni, potrà garantire la soddisfazione della domanda egiziana di gas naturale per decenni, perché il pozzo può avere un potenziale fino a 850 miliardi di metri cubi di gas. Senza contare che in futuro quello stesso pozzo potrà diventare un importante nodo di approvvigionamento strategico per l'Italia e potrebbe anche far cambiare gli equilibri geopolitici nell'area mediterranea. Nel momento in cui i ribassi delle quotazioni del petrolio mettono un'ipoteca sui bilanci delle grandi compagnie petrolifere mondiali e le costringono anche a tagli degli investimenti, questa scoperta potrà avere un impatto positivo anche sull'utile di Eni, come ha spiegato lo stesso Claudio Descalzi, che oggi è in Egitto per spiegare alle massime autorità di quel paese lo straordinario potenziale di quella scoperta. Nel contempo Enel ha annunciato che diventerà, con Enel Green Power, il primo operatore di fotovoltaico nel Brasile. La società guidata da Francesco Venturini si è aggiudicata, nell'ambito della gara pubblica Leilão de Reserva, il diritto di sottoscrivere dei contratti ventennali di vendita di energia per un totale di 553 megawatt, relativi a 3 nuovi progetti. Enel Green Power investirà circa 600 milioni di dollari USA per la costruzione dei nuovi impianti, che saranno completati ed entreranno in esercizio nel 2017. Insomma, un doppio colpo per le grandi imprese italiane e un buon inizio per il dopo ferie del Made in Italy. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Si chiama ZOR1X, non è un farmaco, non è un film, è il prospetto esplorativo, chiamiamolo pozzo, situato a 1400 metri, 1450 metri di profondità d'acqua, e per un totale, diciamo, di una perforazione a 4131 metri di profondità complessiva, cioè la profondità dell'acqua e la profondità, diciamo, del... quando inizia a bucare il terreno, questo per dare l'idea anche del tipo di operazione, sono più di 4 km tra acqua e terreno, dicevo, dove l'ENI ha annunciato di avere scoperto un super giant, che sono i mega giacimenti di gas o di petrolio, Kashagan e Karachaganak in Kazakistan, erano i famosi super giant, sempre di cui faceva parte l'ENI, ma come capocordata. Qui invece stiamo parlando di un progetto in cui l'ENI è l'unico soggetto, non c'è una cordata. Dicevo, super giant con un potenziale di risorse fino a 850 miliardi di metri cubi di gas e un'estensione di 100 km quadrati. Investimento complessivo di Leni per il mega giacimento dovrebbe raggiungere i 7 miliardi di dollari. Il solo investimento di gas iniziale ammonta a 3 miliardi e mezzo. Ed è una conferma per l'ENI, che è il principale produttore di idrocarburi in Egitto, produce 206.000 barili di petrolio equivalente al giorno, e l'anno scorso l'ENI ha estratto un terzo di tutto il petrolio e un terzo di tutto il gas egiziano. Ma è anche la conferma delle competenze, del know-how, come si dice in gergo, dell'ENI, della SAIP, insomma del gruppo, del cane a sei zampe. Negli ultimi 7 anni Eni ha scoperto 10 miliardi di barili di risorse, 300 milioni negli ultimi 6 mesi, e l'anno scorso ha venduto 89 miliardi di metri cubi di gas, 34 dei quali li ha venduti in Italia. E appunto, dicevo che Descalzi ha poi aggiunto il numero dell'Eni, ci sarà un impatto positivo anche sul dividendo. Professor Carlo Scarpa insegna economia politica all'Università di Brescia e da sempre noto esperto dei temi dell'energia, lì Ale, anche il corso di economia industriale. Buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Dunque, fermiamoci un attimo sull'Egitto, poi arriviamo all'Italia, che come sappiamo importa il 90% del gas che utilizza, l'11% lo produciamo noi, e lo importa per il 40% dalla Russia, per il 14% dall'Algeria e per il 10% dalla Libia, con una distribuzione che molti vorrebbero un po' più diversificata. Faccio notare, per dare l'idea di quanto importante sia l'annuncio dell'Eni, che ancora non sta estraendo questo gas, però dopo l'annuncio il prezzo del gas a livello mondiale ha invertito la rotta, ha perso il 2% rispetto alla chiusura di venerdì. Allora, questo, prima domanda che ci pongono, professor Scarpa, da quello che si è capito dalle dichiarazioni dell'Eni, questo super giant servirà principalmente al mercato egiziano o potrebbe rappresentare una diversificazione ulteriore anche per l'Italia? Per ora sembra che sia solo un problema egiziano, ovviamente poi con ricadute positive sui bilanci dell'Eni, che perché l'esplorazione di Eni è stata fatta in accordo con il ministro del petrolio egiziano, con l'ente egiziano del gas, per cui insomma è una questione egiziana. Però è evidente che con possibilità di contratti di swap e cose di questo genere si aprono così, scenari interessanti. Diciamo che le ricadute principali però saranno secondo me sul bilancio dell'ENI e sull'intero equilibrio geopolitico dell'area, che chiaramente cambia leggermente, visto che l'Egitto acquisisce un potere che prima sicuramente non aveva. Tant'è che oltre alle dichiarazioni del premier Matteo Renzi, che su Twitter ha twittato: Eni scopre il più grande giacimento di gas del Mediterraneo, importante per la stabilità e la sostenibilità di Egitto e Africa, hashtag good news, queste cose non so cosa vogliono dire, ma invece il premier egiziano Abdel Fattah al-Sisi, si trova a Singapore, ha detto: la stabilità politica e l'applicazione delle riforme economiche hanno incoraggiato le imprese internazionali a reinvestire in Egitto e nei settori produttivi dei servizi. E ha precisato poi al-Sisi che il governo del Cairo ha siglato 29 nuovi contratti nel settore del gas e del petrolio per 2 miliardi di dollari. Ha citato la scoperta dell'ENI, il più grande al mondo, il più grande giacimento di gas al mondo al largo delle coste egiziane. In realtà, appunto, è il più grande giacimento mai scoperto nel Mediterraneo, questo lo sappiamo per certo. I tempi, da quello che lei ha capito, professor Scarpa, i tempi per l'estrazione vera e propria, 2 anni? Così pare, mi sembra francamente un po' ottimistico, però parlano di 2016, si tratta di conoscere esattamente i dettagli geologici dell'area, capire fino a che punto le trivellazioni che hanno fatto finora possono essere già sfruttate per tirar fuori il gas e sfruttarlo su base industriale. Però se non sarà 2016 potrebbe essere 2017, questo non credo che farebbe una gran differenza, sicuramente è una data abbastanza ravvicinata e infatti i mercati si sono accorti subito. Ecco, qui c'è un successo non solo per l'ENI come dividendo, che poi significa anche dividendo per il nostro Ministero del Tesoro, quindi utili, perché poi la società che verrà creata sarà il 50% ENI e governo e Stato egiziano. Però pone anche, a mio avviso, una riflessione sulla Saipem. Perché lo dico? Perché questa è una vittoria del know-how, delle competenze, non solo della forza, diciamo, industriale, della forza economica, ma anche delle competenze dell'ENI, perché arrivare a quelle profondità per scoprire un super giant vuol dire che stai lavorando con, non dico i migliori, ma tra i migliori e con le tecnologie migliori. Questo, secondo lei, potrebbe, l'ENI ha smentito anche nel fine settimana di pensare alla cessione di Saipem, ma le due cose si tengono, il volo è troppo pindarico, cioè quando tu hai questa grande capacità, know-how in casa che ti permette poi di arrivare a questi risultati, ma ti conviene cedere gioielli di famiglia? Io penso proprio di no, io spero che non ci pensino minimamente. Saipem è uno di quei gioielli dell'ingegneria mondiale che abbiamo in casa e che credo che ci dovremmo tenere ben stretti. Ci dà una forte capacità di penetrazione nel mercato arabo, una forte capacità di penetrazione in tutto il Caucaso e dintorni, è quasi un'arma politica. non nascondiamoci dietro un dito, questa è una scoperta importante dal punto di vista economico, ma dal punto di vista politico rafforzare i legami tra l'Italia e l'Egitto. Beh, certo, in questo periodo. Insomma, questo è probabilmente la dimensione più importante e per l'Egitto chiaramente questo è un grandissimo risultato. Avere Saipem, che ha questa capacità di movimento in tutta quest'area, sicuramente rappresenta un... Sì, più che un'arma è uno strumento di politica estera, come sempre è stato l'ENI, ed è giusto che sia così, nel senso che la politica estera la fai anche con gli accordi commerciali, con gli accordi di sviluppo per quello che riguarda lo sfruttamento delle risorse energetiche, dando competenze che i paesi non hanno, e fai politica estera, cioè poi questi rapporti creano la piattaforma per altri rapporti di carattere commerciale, non c'è nulla di strano. Secondo lei, perché tutta l'area del Mediterraneo la vediamo un po' risvegliarsi come attività di ricerca, improvvisamente scopriamo che c'è il gas nel Mediterraneo o siamo solo ignoranti? No, è tanto tempo che se cioè, ne parla, sì, che si sta ricercando lì in Croazia, nell'Adriatico ce n'è parecchio, in tutta la zona di fronte all'Egitto, anche in area cipriota, in area israeliana, ci sono parecchi campi di gas che sono lì, pare, per essere sfruttati o sfruttabili, per cui no, è un'area che è da tanto al centro dell'attenzione. Beh, in bocca al lupo quindi a Leni, a tutti i suoi dipendenti, alla Saipem, quindi noi siamo sempre contenti quando festeggiamo la vittoria italiana, chiamiamola vittoria in questo caso, ma ripeto, l'abbiamo detto due volte, aggiungo la terza, sarebbe completamente fuorviante e limitante pensare solo a un elemento di carattere economico, qui c'è di mezzo la politica estera e la solidità di quello che assieme al Marocco è l'unico baluardo ancora, diciamo, di tutto il Nord Africa, e quindi dell'altra costa del Mediterraneo per quello che ci riguarda, baluardo contro insomma invece quello che vediamo accadere in Libia e con tensioni minori purtroppo anche in Tunisia e in altri paesi. Quindi la solidità dell'Egitto è fondamentale da un punto di vista della politica estera. Grazie intanto al professor Carlo Scarpa, meteo e pubblicità. Focus Economia. Sweat 17:36 minuti. Allora, dicevamo già, anticipavamo delle conseguenze dell'annuncio dell'Eni in borsa. E faccio notare che con un prezzo del petrolio ancora debole e fiacco, come ormai da mesi interi, con i picchi, o meglio con le cadute delle ultime due settimane, è quanto mai importante, quanto mai significativo il rialzo dei titoli in borsa, perché il petrolio continua a essere a 40, oggi ha perso il 2,6% a $44 al barile, ma alla fine l'Eni, che era arrivata a guadagnare quasi il 4% durante la seduta, chiude con un rialzo dell'1,5%, Saipem addirittura più 2,5%, per una borsa che proprio è migliorata nel finale, nell'ultima mezz'ora. Ma devo dire, il fatto che Milano vada meglio di altre borse europee, il motivo si chiama proprio Eni, meno 0,24% Milano, Parigi meno 0,40%, Francoforte meno 0,40%, Parigi meno 0,50%. L'America perde in questo momento 0,5 punto percentuale, Londra invece sta guadagnando lo 0,90%. Vincenzo Longo, Market Strategist per IG Markets Italia. Sapete che noi ciclicamente ospitiamo anche gli operatori di borsa. Buonasera. Buonasera a tutti. Beh, partiamo dall'Eni, insomma, se vuole aggiungere qualcosa, il titolo è arrivato a guadagnare quasi il 4%, immagino soprattutto dopo le parole di De Scalzi che dice attenzione, questo avrà un impatto positivo anche sul dividendo. Esattamente, sono state proprio queste parole in qualche modo insieme alla notizia della scoperta del giacimento di gas più grande del Mediterraneo che hanno sostenuto il titolo a Piazza Affari oggi e hanno aiutato il listino, come diceva lei, a rimanere su cali più contenuti rispetto alle altre piazze finanziarie europee. Eni, che in qualche modo sta una svolta più sul lato gas e non oil in questo caso, che risente in questo caso il ramo petrolio proprio dai bassi prezzi del greggio. Nonostante il rialzo odierno, comunque continuiamo a raccomandare cautela, e questo perché le prospettive sul settore del petrolio, così come quello delle commodities più in generale, rimangono abbastanza deboli e depresse per la situazione cinese per lo più, e questo dovrebbe mantenere tutti i titoli di questo comparto su livelli particolarmente bassi. Quindi non escludiamo che ci possa essere nel corso delle prossime sedute settimane un ritorno di debolezza. Sì, quindi fa bene a ricordare che comunque le prospettive sul petrolio restano, e sul prezzo del petrolio, molto deboli, come conseguenza, l'abbiamo spiegato molte volte la settimana scorsa, di un rallentamento dell'economia e della crescita dei paesi considerati giustamente traino di questa ripresa economica, i paesi emergenti. Andiamo avanti. A proposito delle notizie che oggi sono arrivate dalla Cina e dall'India, soprattutto revisione della crescita a ribasso, per quello che riguarda la Cina è la stima di Goldman Sachs, per quello che riguarda l'India invece è proprio il dato, è un Brasile che gli economisti locali vedono ormai, insomma, con un certo grado di certezza chiudere l'anno in recessione. Oggi di nuovo abbiamo visto soffrire i titoli del lusso, tranne, se devo dirla tutta, Moncler, che ha fatto un più 0,50%. Esattamente, ancora una volta il settore del lusso oggi è stato uno dei più penalizzati a Piazza Affari, ma anche a livello mondiale le vendite su tutti gli altri titoli del comparto sono state abbastanza marcate. Segnale questo che l'outlook per gli investitori rimane abbastanza debole, il rallentamento, come diceva lei, della crescita anche in India, a cui si aggiungono poi i timori sulla Cina e la recessione in Brasile, ma anche le continue dispute che l'Europa ha nei confronti della Russia, sicuramente non favoriscono l'outlook del settore. Se guardiamo anche i conti di Ferragamo, che solo la scorsa settimana ha rilasciato una trimestrale piuttosto debole e deludente, diciamo, ecco, che tutto quello che diciamo va un pochino a concretizzarsi anche nelle cifre. Detto questo, quindi, il settore del lusso insieme a quello petrolifero saranno a nostro avviso quelli più deboli a livello, certo, diciamo, sul nostro paniere principale, ma anche in Europa da qui a fine anno. Quindi, diciamo, lusso e petrolio da prendere con le pinze, mettiamola in questo modo. Do i titoli intanto. Ferragamo, Salvatore Ferragamo, meno 2%, visto che parlavamo del lusso. Cito anche Tod's, meno 0,80%, Luxottica, meno 0,33%. Diverso il caso, come ricordavamo, di Moncler. E poi altri titoli, poi arrivo alle banche. Telecom, meno 1,60% come A2A, Fiat Chrysler, meno 1,30%, CNH, meno 1,12%, Banco Popolare meno 1,1%, e ancora Snam oggi invece meno 1%, Exor meno 1%, Unipol 6 meno 0,97% e Mediaset meno 0,93%. Dicevo, tra i titoli oggi, poi arriviamo al tema della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Un attimo di pazienza, lo dico agli ascoltatori, però. Oggi deboli tutte le banche, in particolar modo alcune popolari. Esattamente, le banche popolari sono state quelle che hanno sofferto di più, anche l'annuncio probabilmente del piano di ricapitalizzazione della Popolare di Vicenza, a cui faceva a riferimento l'Eurovio in questo momento, potrebbero aver, diciamo, avuto un certo effetto nella fase di vendita su questo settore. È un settore però, ecco, che in ottica prospettica, differentemente da quello che abbiamo detto sinora, potrebbe regalare delle soddisfazioni in vista dei piani di aggregazione e quindi di consolidamento a cui vanno incontro. Quindi rimane questo punto il principale market mover e quindi il principale elemento su cui puntare in questo momento per chi opta, decide di investire sul settore delle banche popolari. Il passaggio, quindi, è sotto diciamo, il cambiamento di statuto, il passaggio in SPA sarà poi precursore per un consolidamento di ampio raggio che coinvolgerà, cioè, tutte le banche, ecco, popolari, allora, italiane. Insomma, entro il 1 gennaio devono diventare SPA e quindi perdono tutti, diciamo, i paletti e le specificità, chiamiamole così, del mondo delle popolari, il voto capitario, la soglia massima di possesso e quant'altro. Diventano contendibili, cioè comprabili. Ed ecco perché il mercato scommette che vi saranno grosse aggregazioni, grosse non solo come dimensione delle banche, ma come numero, per cui tutto il mondo delle popolari, diciamo, secondo quello che vediamo come stime, verrà coinvolto in queste fusioni. Poi chi si sposerà con chi ricorda certi balli folcloristici in cui da una parte hai le donne, dall'altra gli uomini, e le coppie devono formarsi. Poi non so se ne resterà qualcuna fuori o qualcuna delusa, perché il rischio, questo vuol dire chi si fonderà, chi si prenderà la Popolare di Vicenza, chi prenderà Veneto Banca, chi prenderà il Credito Valtellinese, o cosa, dico, prenderà, o che cosa prenderà, cioè se sarà preda o cacciatore. E vale per la Popolare di Milano, vale per UbiBanca, per la Popolare di Sondrio e via così. Migliori e peggiori oggi in borsa, la Roma Calcio, e non spiego nemmeno il perché, più 5%, Cerved più 5, D'Amico più 4, Biancamano più 3 e 60, Caltagirone più 3,20. Il fronte opposto invece Olidata meno 7,40, PRL meno 6,90, AF meno 5,70. Come accelero la Lazio invece, e anche qui non spiego il perché, meno 4,33%. Tra i titoli che non ho citato forse Telecom Italia che perde l'1,60, ma vorrei anche citare in positivo Iux più 0,70, Finmeccanica più 0,50 come Moncler appunto, e Buzzi Unice mezzo punto percentuale di rialzo. Inter San Paolo guadagna lo 0,30% in controtendenza rispetto al resto del settore bancario. Euro a quota 1,1200 e quindi vicinissimo a quota 1,11. Grazie a Vincenzo Longo, Market Strategist per AG Markets Italia. Il traffico e poi parliamo della Popolare di Vicenza e anche di Veneto Banca, visto che sono usciti i bilanci di ambedue. Focus Economia. Sette 47 minuti, vedo alcuni messaggi che mi dicono Londra è chiusa, forse per errore Londra è chiusa, è il Summer Bank Holiday oggi, forse per errore è abituato a leggere tutti i mercati, devo aver letto Londra, chiedo venia, Londra è chiusa, rispetto Bank Holiday, Summer Bank Holiday, non ricordo male. Allora, che cosa è successo alla Popolare di Vicenza? Premessa, alcune banche popolari non quotate, in caso tipico la Popolare di Vicenza e Veneto Banca, emettono comunque, hanno emesso nel passato azioni. Il problema è che queste azioni, non essendo quotate, non le puoi vendere il giorno dopo o quando va a te, perché devi trovare un compratore. Se fossero quotati i titoli in borsa, il compratore lo fa al mercato, cioè domanda e offerta si incrociano e questo è. Il problema è quando tu non sei quotata, perché a quel punto te la deve trovare lo sportellista. Adesso la voglio semplificare per tutti, non è? Cosa è successo? Che le azioni della Popolare di Vicenza valevano, se non ricordo male, 75 euro e quindi sono state offerte agli azionisti, ai correntisti a 75 euro. Adesso siamo arrivati a meno della metà e nel frattempo siamo stati inondati di mail, messaggi, lettere di azionisti che andavano in banca e dicevano voglio vendere le mie, magari le vendo a 70, 65 o le voglio vendere al prezzo in cui me le avete date, ma non riuscivano mai a trovare un compratore, un acquirente. Quindi se tu non hai un acquirente in un mercato che non è il listino, devi aspettare. Nel frattempo vengono svalutate queste azioni, vengono portate a meno della metà e questo fa arrabbiare, diciamo, tutti gli azionisti della Popolare di Vicenza. Nel fine settimana, venerdì, scopriamo, per modo di dire, che in seguito all'ispezione della Banca Centrale Europea, che scopre alcune irregolarità nella Popolare di Vicenza, la banca annuncia una perdita di 1 miliardo e 53 milioni di euro e annuncia il terzo aumento di capitale in 3 anni, un aumento di capitale importante da 1,5 miliardi di euro. Come ci si è arrivati? I vari passaggi per far capire a tutti. Luca Davide, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Luca, arrivano gli ispettori della Banca Centrale Europea dopo gli stress test e quant'altro. Che cosa scoprono dentro la Popolare di Vicenza che, per essere buoni, non gli è piaciuto in realtà? Lo denunciano come una irregolarità. Sostanzialmente alla fine, al termine di una lunga ispezione durata diversi mesi e i cui risultati devono essere ancora formalizzati, comunque emerge un dato abbastanza rilevante, cioè che circa 1 miliardo di euro che faceva parte del capitale, del patrimonio di vigilanza della banca, quindi insomma soldi pesanti all'interno dei bilanci della banca, era stato, diciamo, era arrivato tramite finanziamenti che la banca erogava ai singoli clienti e che poi diventavano azioni. Ecco, questa è una... Qui bisogna spiegare a tutta, perché sarà successo a tutti... Immagino quando vai in banca di sentirti dire da chi ti dà un mutuo, sì, però sarebbe bello che lei comprasse anche delle azioni della banca. Intanto non può essere un obbligo, quindi se vi sentite dire il mutuo te lo diamo solo se compri le azioni e la denuncia. Però uno può essere un'offerta. L'abbiamo sempre detto, attenzione, perché quando questa banca è quotata, male che vada, uno ha fatto un investimento in borsa, poi vede che le cose vanno bene, vanno male, la vende. Quando la banca non è quotata bisogna fare molta attenzione, perché poi è la banca stessa che deve trovarti un acquirente. E questo è il problema vero, il problema uno. Della banca popolare. Però qui il problema è che la BCE, se ho ben capito, dice che la Popolare di Vicenza aveva fornito 975 milioni di euro, sì, quasi, come, un miliardo. Quasi un miliardo di fidi, di crediti, finanziamenti, cioè, di finanziamenti ai suoi azionisti, a patto che con questi soldi comprassero le azioni della diciamo banca. Che sono sì, correlati all'acquisto di azioni stesse, ed è un ovviamente questo può costituire un problema non tanto a livello civilistico in sé, perché comunque questo di per sé può anche non costituire un problema, poi si vedrà, si faranno approfondimenti, ci sono ovviamente indagini in corso e quindi ancora non c'è un punto definitivo, ma sicuramente il problema qual è? Che qualora questi finanziamenti non venissero poi restituiti, di fatto ci sarà un problema serio per la banca a livello ovviamente di sostenibilità del patrimonio, perché gli verrebbe a mancare questo miliardo. Diciamo che se tutti non venissero a restituire i fidi alla banca, questi soldi verrebbero meno. Però fammi che, allora, intanto giustamente gli ascoltatori mi fanno notare che era arrivata a 62,50 euro il titolo e adesso è a 48, è vero. Ma la BCE dice che questi fidi da quasi un miliardo diventavano direttamente acquisto di azioni, erano correlati, tecnicamente viene detto correlati, diciamo che ci sono buone insomma possibilità che questi soldi poi venissero sostanzialmente riutilizzati per l'acquisto. No, lo chiedo perché se buona parte di questi soldi sono stati utilizzati per l'acquisto, è chiaro che nel momento in cui il titolo si è dimezzato e tu probabilmente tu non riesci più a ridarli in alcuni casi. Questo è un e allora la BCE problema. Dice scusate, voi avete un miliardo esattamente fuori di fidi correlati all'acquisto dei vostri titoli, nel frattempo il titolo l'avete svalutato del 50% quasi, dovete... E ha chiesto che cosa? Sostanzialmente il problema qual è? Che questo miliardo, che vale quasi un terzo dell'intero patrimonio di vigilanza della banca, perché scende sostanzialmente da 3 e qualcosa a 2 miliardi, non viene più conteggiato ai fini, diciamo, dei ratio patrimoniali, cioè del patrimonio vero, solido della banca. E quindi BCE ha detto sostanzialmente, cara Banca Popolare di Vicenza, questo miliardo devi rimetterlo in qualche modo fresco. E da lì l'aumento di capitali. E se a questo si aggiunge il fatto che la banca ha dovuto anche ulteriormente perdere parte del patrimonio di vigilanza, complice questa grave perdita di un miliardo, che sostanzialmente è frutto di una svalutazione, maxi svalutazione, di quelli che erano crediti erogati in passato e che di fatto si sono rivelati purtroppo deteriorati, bene, si arriva sostanzialmente alla urgenza di arrivare a 1,5 miliardi di nuove emissioni di capitale. Aumento di capitale in italiano vuol dire che tu chiedi soldi a persone che ti prestino soldi per aumentare, che diventino azionisti tuoi per aumentare il capitale. Ci sono quelli positivi quando tu devi fare una grande acquisizione, quindi perché ti stai sviluppando e dici ai tuoi azionisti datemi ancora più soldi che io sto crescendo e farò ancora più utili. Ci sono quelli negativi, vedi il caso Monte dei Paschi o Popolare di Vicenza adesso, quando tu vai sotto i livelli, i criteri, i ratio patrimoniali, sei obbligato a rimpinguare la cassa perché le regole della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea, che adesso vigila direttamente su queste banche, ti dicono non puoi avere così pochi soldi in cassa e quindi ti tocca chiedere soldi o partecipazione al capitale, ma non per un motivo virtuoso. No, in questo caso si tratta di rimanere in piedi, diciamo, e rimanere in piedi al meglio. Diciamo che le prospettive sono, almeno questa è l'intenzione del nuovo amministratore delegato di Popolare Vicenza, che è arrivato giusto qualche settimana fa, insomma, al termine di un cambiamento anche piuttosto violento all'interno della banca. Insomma, l'intenzione è quella di rilanciare potenzialmente, diciamo che la speranza è che la banca sicuramente si rimette in piedi attraverso sia questo aumento e poi a una successiva quotazione direttamente in borsa. Ecco, da lì infatti la richiesta la Banca Centrale Europea di dire attenzione, dopo, visto che questi soldi li hai prestati in maniera correlata all'acquisto di azioni tue, devi mettere 611 milioni di euro come riserva indisponibile che non puoi utilizzare, e poi devi accantonare, cioè mettere da parte in cascina 340 milioni di euro come fondi per rischi e oneri che ti sei presa. Vengono a mancare in questo modo quasi un miliardo di euro e da lì l'aumento di capitale. Diciamo che in prospettiva si apriranno infine due strade per gli azionisti, diciamo, quella di o uscire del tutto e ovviamente incassare purtroppo delle perdite per chi più o meno ha sottoscritto ai massimi, magari continuano perdite un po' più contenute per chi magari all'inizio, oppure quello di rimanere, comunque di rimanere nell'aumento di capitale, sottoscrivere le azioni, magari incentivato da un meccanismo di, insomma, di supporto che la banca potrebbe studiare, e a quel punto mediare un po' con le perdite. E ovviamente sarà sicuramente una bella sfida, una bella scelta per tutti i risparmiatori, tra perdere un po' di più o magari tentare di mediare le perdite. Si vedrà. Un dato è certo, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca ovviamente stanno, come dire, subendo l'onda lunga di una crisi che ha colpito l'economia locale e quindi tutti i territori, ma inevitabilmente poi ha colpito nelle tasche i risparmiatori stessi. Questo è fuori dubbio. Allora, siete dei vigliacchi, non dite la verità, è strozzinaggio nella concessione di prestito. Guardi che questa pratica l'abbiamo raccontata in tempi non sospetti, mesi e mesi fa, con il collega Fabio Pavesi ed altri. Dice: attenzione, perché c'è questo vizietto che non ha solo la Popolare di Vicenza. Il problema della Popolare di Vicenza, di Veneto Banca, è che non erano quotate. Questo vizietto di dire: vuoi il mutuo, vuoi il fido, comprami 10.000 euro d'azioni, diventa, ce l'hanno tantissime altre banche. E quindi immagino che sia vero quello che scrive un ascoltatore, che dove cavolo è finito, adesso non lo becco più. Diceva che la Popolare di Vicenza voleva obbligarlo a comprare azioni se non voleva ottenere un punto in più di tasso, cioè l'aumento del prestito concesso. 10.000 euro di azioni me le avrebbero finanziate loro insieme al mutuo, così avrei oltretutto pagato interessi. Sì, appunto, questa è la critica che fa anche la Banca Centrale Europea, di correlare l'erogazione di un mutuo all'acquisto di azioni. È una prassi che in qualche modo sicuramente... Ma è sbagliata, chi di solo la difende. Certamente, è stata subita. Poi è vero che non c'è un obbligo, però è anche vero che quando ti dice: oh, se vuoi il mutuo da 100.000, comprami 10.000... E non a caso la BCE infatti adesso ha imposto sostanzialmente che questa prassi non venga più adottata. Ci mancherà. E la quotazione servirà anche a questo. Dove fosse anche la Banca d'Italia quando c'era questa prassi, ma comunque... A questo punto mi sembra che sia Popolare di Vicenza che Veneto Banca siano più prede che cacciatori. Diciamo che questo si capirà sicuramente nel primo trimestre del 2016, perché a quel punto, una volta entrate in borsa, e quindi diciamo che questa prassi, insomma, delle azioni quantomeno diventeranno più liquide, e quindi si riusciranno quantomeno a vendere, magari incassando le perdite, ma si venderanno bene, a quel punto le banche saranno più contendibili. Già oggi, insomma, possono essere, come dire, nei rumors che ci sono fra tutti, sono soggetti sicuramente che sono tra quelli più contendibili. Vedo che molti mi scrivono che anche nelle BCC, nelle banche di credito cooperativo è normale, altri dicono che era ancora peggio perché alcuni hanno dovuto fare queste operazioni, se no gli toglievano il fido già concesso. Vi torneremo, secondo me non finisce qui la vicenda, Vicenza. Grazie intanto a Luca Davi, adesso GR24 e poi il resto dei temi, a partire anche dall'andamento dei consumi. Focus Economia. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per la seconda parte di Focus Economia, oggi tornata nella sua programmazione abituale. Allora, prima di arrivare all'altro tema che avevo annunciato, quindi il dato di oggi sui consumi degli italiani e le vendite del taglio, che è vero che sono calate a luglio rispetto a giugno, ma a noi interessa il tendenziale, cioè l'anno su anno sono cresciute dell'1,7%, che è il dato più alto da oltre un anno. Cambio leggermente la scaletta perché sta capitando qualcosa di strano nel mondo del petrolio, e non mi riferisco all'Eni e al, perché quello era il gas di cui abbiamo parlato in apertura a lungo, ma il prezzo del petrolio, che aveva aperto a ribasso, oggi sta salendo, è arrivato a guadagnare oltre il 5% nell'ultima 20 minuti e mezz'ora, e a New York il WTI ha toccato, è andato anche sopra i $47 al barile. C'è in collegamento con noi Sissi Bellomo, che segue il mercato delle commodities a partire dal petrolio per il Sole 24 Ore. Sissi, buonasera. Sì, buonasera. È vero, ha girato poco fa il petrolio nell'ultima mezz'ora, prima era in ribasso e adesso guadagna più del 5%, ti confermo. E, è vero che è molto volatile, già da tempo ci siamo abituati a vedere delle oscillazioni fortissime, l'ultima settimana continua a essere altrettanto volatile. ci sono un paio di notizie che potrebbero aver innescato questa virata, questa brusca virata. E la sono, prima qual è? Una è di tipo più tecnico. Le statistiche che il governo americano diffonde mese per mese sulla produzione americana, che vengono sempre molto osservate, c'erano tutti gli analisti sorpresi dal fatto che, nonostante il crollo, il più che dimezzato, il prezzo del petrolio non cedesse questa produzione americana, il governo americano ha adottato una nuova metodologia di calcolo, ha confermato quello che molti sospettavano, che cioè la produzione americana effettivamente è diminuita, è diminuita prima e più nettamente di quanto si pensasse, di quanto risultasse dai dati precedenti. Questo elemento deve aver pesato parecchio sui mercati, ma c'è anche un altro elemento, che sono ritornate ad esserci voci di un possibile intervento da parte dell'OPEC. Intervento poco probabile finché l'Arabia Saudita e i suoi alleati del Golfo Persico sono convinti della loro strategia di non intervenire, di far cedere gli altri produttori, ma comunque sia. Nel bollettino dell'OPEC pubblicato oggi viene ribadita comunque la volontà a parlare con altri produttori e a intervenire eventualmente con altri produttori. Contemporaneamente dalla Russia arriva notizia che il presidente Putin si incontrerà per parlare di possibili azioni a frenare la caduta dei prezzi del petrolio, si incontrerà con Maduro, il presidente venezuelano, quando si vedranno in Cina per le celebrazioni dei 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Le due cose insieme devono aver spinto gli operatori a cambiare. Allora, chiariamo due cose. Il mercato del petrolio, come in tutti i mercati delle commodities, ma a maggior ragione, si muove sui futures, sulle scommesse sul futuro, per cui non c'è nulla nel presente come produzione, ma si fa ragionamento sul futuro. Siccome il prezzo del petrolio è calato, adesso non nelle ultime settimane, lì il ragionamento era più sul rallentamento dell'economia cinese, indiana e brasiliana, ma negli ultimi mesi è calato per effetto del braccio di ferro che tu ricordavi, ossia i paesi produttori, l'OPEC, capitanati dall'Arabia Saudita, hanno deciso di lasciar scendere le quotazioni per cercare di buttare fuori mercato, cioè di non rendere più conveniente l'estrazione di petrolio americano, quello dello shale oil, quello delle sabbie bituminose, perché si riteneva, avendo un alto costo di estrazione, se il petrolio fosse sceso sotto i 70, se non ricordo male, dollari al barile, in automatico sarebbero finite fuori mercato tutte queste estrazioni così costose, che si giustificavano, si ripagavano solo con un petrolio superiore ai 70 dollari al barile. Questo braccio di ferro per ora non aveva portato nessun risultato da quello che vedevamo, cioè difficoltà nei grandi gruppi petroliferi, ma i piccoli produttori avevano continuato, tant'è che il petrolio era continuato a scendere, prima a 70, poi a 60, poi a 50 e poi a 40 dollari. Ora tu ci dici che da un lato il fatto che in America la produzione sia, con il nuovo calcolo, calata più di quanto non ci si attendesse e più di quanto non fosse prima diffuso, starebbe a significare che un effetto questo prezzo basso l'ha avuto, espellendo alcuni produttori più piccoli dal mercato, e dall'altro che l'OPEC stessa potrebbe essere interessata a mettere fine a questo braccio di ferro, ha fatto risvegliare la, chiamiamola col suo nome, la speculazione su un prezzo del petrolio in aumento, e quindi si va a comprare a un prezzo più alto. Sì. Esattamente, hai riassunto bene la situazione. Bisogna ricordare ai nostri ascoltatori che il mercato del petrolio è sopraffatto da un eccesso di offerta, è questo che tiene giù i prezzi. C'è molto più petrolio. E dimenticavo la variabile iraniana, perché poi c'è stato. Anche in futuro potrebbe aumentare ulteriormente, perché con il ritorno dell'Iran sul mercato, questo mercato già afflitto da un eccesso di offerta, da più petrolio di quello che il mondo in questo momento sta consumando, anche a causa del rallentamento della Cina e di mille altri fattori, ma soprattutto della produzione molto molto potente da parte dei produttori di shale oil americani. Ebbene, in questo mercato afflitto da un eccesso di offerta, la notizia che tutti aspettavano da mesi, tutti gli speculatori, giustamente come ricordavi, aspettavano da mesi che ci fosse un cedimento da parte di questo shale oil americano, beh, adesso sembra che effettivamente il cedimento ci sia stato. Questa è una notizia che è capace di scuotere i nervi degli speculatori, quantomeno nell'immediato. Non è detto che a questo punto sia finita, inizia il recupero. Mi aspetto, ci aspettiamo tutti, gli operatori aspettano grande volatilità ancora nei mesi a venire, e soprattutto queste revisioni non sono poi state così enormi da cambiare gli equilibri. Però da gennaio a maggio sono state fatte revisioni fino a 130.000 barili al giorno, in meno di quello che si pensasse. A giugno la come produzione americana, chiaramente. Come produzione americana, sì, revisioni anche superiori a 100.000 barili al giorno, che non è pochissimo, ma non è neanche così tanto se si pensa che nel secondo trimestre, secondo i dati dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, c'era un eccesso di petrolio di circa 3 milioni di barili al giorno, quindi 100.000 in più o 100.000 in meno negli Stati Uniti non cambia. No, ma infatti non è il dato in sé, ma potrebbe segnalare l'inizio, di un cambio di tendenza e di direzione in quello che abbiamo visto fino adesso. Vedo la battuta di molti ascoltatori: domani i prezzi da pompa aumenteranno. Sì, sapete quanto vischioso è l'andamento della benzina rispetto al prezzo del petrolio. Comunque torneremo a parlarne, in questo caso parlavamo di petrolio in senso stretto. Grazie anche a Sissi Bellomo per questo aggiornamento, perché obiettivamente un cambio di direzione da un meno 2, meno 3 a un più 5% nell'arco di mezz'ora ancora non l'avevamo visto. Il traffico e poi se volete legarli anche al costo del petrolio, ma in realtà ci occuperemo dei consumi degli italiani. Focus Economia. E 17 minuti, la battuta viene facile, i consumi degli italiani quali? In realtà anche qui, sempre senza esagerare, senza diventare manichei o guelfi ghibellini, che i consumi degli italiani siano deboli, debolissimi, che il potere d'acquisto si sia ridotto, lo raccontiamo da mesi, da anni. Però andiamo, se volete, un po' come nel caso del petrolio, a guardare i segnali, i piccoli segnali. Allora, il dato diffuso oggi dall'Istat che riguarda le vendite al dettaglio nel mese di giugno segnala un aumento dell'1,7% rispetto a un anno prima, ed è l'aumento più alto dall'aprile 2014. Le vendite di alimentari rispetto all'anno prima, o meglio, vediamo quali vendite sono aumentate di più: apparecchiature fotografiche, supporti musicali più 3,5%, quindi anche l'elettronica, giochi e giocattoli più 3,2%, gioielli e orologi più 3,1%, prodotti farmaceutici più 2,2%, calzature più 1,4%, prodotti cosmetici più 1%, abbigliamento più 0,6%, in calo invece c'è un altro tipo di elettronica, cellulari e PC meno 0,9% e elettrodomestici meno 1,1%. E la Coldiretti fa sapere che per la prima volta nel 2015 si registra un aumento delle vendite nelle piccole botteghe alimentari, i negozi di alimentari, che risultavano in calo dal 2008 su base annuale, almeno dal 2008. Devo dire che vanno invece, continuano ad andare bene i discount alimentari, che sono sempre andati molto bene da quando c'è la crisi, più 4,5% a giugno. Poi fa notare la Coldiretti il ritorno alla spesa di quartiere stimolato dal proliferare in città dei negozi ad orari no limits gestiti da immigrati. Qui dovremmo aprire il tema delle licenze, della flessibilità negli orari, un tema che mi sta molto caro, ma mi stava caro anche prima che scoppiasse la crisi. Comunque, Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, buonasera. Buonasera. So già che mi dirà, ma la Coldiretti cosa vuole? Beh, la Coldiretti esprime... No. Però, insomma, però è interessante il fatto che, come sosteniamo da tempo, è vero che se uno i soldi non li ha, tu puoi avere l'orario che vuoi, io non vengo a consumare. Però che un eccesso di rigidità negli orari, nel tipo di servizio offerto, nelle chiusure, avvantaggiasse la grande distribuzione, mettiamola così, e svantaggiasse i piccoli esercizi, lo diciamo da tempi, in tempi non sospetti. Comunque, voi vi ritrovate in questo dato dell'Istat sulle vendite a dettaglio anno su anno? Sì, il dato dell'Istat di oggi però diciamo, una duplice lettura. Rispetto all'anno scorso, tutte le vendite al dettaglio sono in crescita in volume, perché giustamente lei sottolineava che l'informatica, la telefonia, come gli elettrodomestici, radio e TV hanno il segno negativo, ma hanno il segno negativo perché hanno prezzi fortemente decrescenti. Cioè, se tolgo a questo meno 0,9 in valore, tolgo un'inflazione di meno 2, meno 3, questi sono i beni che stanno crescendo di più. E per la prima volta direi che abbiamo una diffusione, seppure modesta, a tutte le categorie di consumo. Quindi questo è il segnale positivo. Ma è un segnale positivo se guardiamo lo scorso anno. Il 2014 è stato l'anno di minima assoluta dei consumi rispetto, diciamo, agli ultimi 20 anni in termini pro capite, agli ultimi 7 in termini aggregati. Invece, dal punto di vista congiunturale, purtroppo mese su mese, quindi c'è un meno 0,3. Questo non è, questo onestamente è un dato un po' deludente. Cioè, si è innescato un ciclo di acquisto di durevoli che va dalle auto alle TV alla telefonia, quindi beni durevoli stanno crescendo. Però sull'abbigliamento, sugli alimentari, almeno nel dato mese su mese, siamo ancora zoppicanti, e questo è un po' il paradigma, lo schema di debolezza di questa ripresa. Speriamo che domani l'Istat, con i dati definitivi sul secondo trimestre, possa modificare un po' al rialzo la prima stima del PIL, che è veramente deludente per il nostro secondo trimestre. Sì, considerate anche le condizioni di contesto, tassi ai minimi, petrolio basso e euro debole. Debole o comunque in ribasso rispetto al dollaro. Senta, Bella, lei dice, distingue giustamente tra durevoli e non durevoli. Lo dico perché una spiegazione sul buon andamento, diciamo così, dei beni durevoli sono quelli, appunto, che non, come dice il termine, devono durare, non, dall'acquisto dell'auto allo stereo. Non è che uno cambia l'auto ogni mese o lo stereo ogni mese. Alcuni dicono, beh sì, lì si era talmente compresso l'acquisto, c'erano stati così ritardati gli acquisti che c'è un rimbalzo dovuto, mentre nei beni dove la scelta è più soggettiva, se vogliamo, cioè comprare una camicia in più, andare al ristorante una volta in più, comprare un certo tipo di alimento piuttosto che un altro, non è né un bene durevole né appunto un consumo obbligato, lì ancora non la vediamo. Sì, esatto. Lì ancora, diciamo, non è che non lo vediamo, si vede poco, perché per esempio sui ristoranti e sui bar segni positivi ci sono, ma non entrano nelle vendite al dettaglio, che riguardano solo i negozi di sede fissa, tra l'altro non ci sono nemmeno gli ambulanti. D'altra parte però l'argomentazione che i durevoli dovevano crescere perché erano scesi molto funziona, ma fino a un certo punto, nel senso che gli economisti si devono spiegare alle persone perché proprio in questo momento c'è stato il rimbalzo, perché purtroppo in economia al peggio non c'è limite, potevano continuare a scendere. No, allora, anche perché uno che si è tenuto, adesso faccio un esempio banale, lo stereo di 10 anni fa o l'auto di 5 anni fa poteva andare avanti altri mesi o un altro anno, per cui non è detto, cioè il tema è capire perché adesso e non... Un po' di reddito disponibile in più c'è, per esempio si parlava di prezzo del petrolio prima, insomma, ecco, il fatto che i carburanti costino un po' meno rispetto a 8-9 mesi fa, ecco, quello, diciamo, libera un po' di risorse per un altro tipo di acquisti, un po' di reddito disponibile in più c'è perché perlomeno la pressione fiscale non è cresciuta. Certo, questa debolezza della ripresa è una cosa onestamente fastidiosa, cioè ci aspettavamo qualcosa di meglio. Perfino lei, diciamo, che è sempre molto cauto, non dico negativo, ma cauto nel dire c'è la ripresa, si aspettava un dato sul PIL più confortante. Sì, ma sì, un po' almeno 0,4-0,5, non eravamo gli unici, tra l'altro, che anche Banca d'Italia fa delle elaborazioni abbastanza serie sul PIL mensile, e le loro valutazioni erano migliori. Per questo io spero, non dico che scommetto, ma spero che domani che esce il dato sul PIL ci sia una piccola revisione al rialzo, che sarebbe tra l'altro coerente per esempio col dato che è uscito oggi sul fatturato dei servizi. Allora, il fatturato dei servizi, che vale con il 70% del PIL, è cresciuto del 2,9 in termini nominali, togliamoci pure un po' di inflazione, no? Ma vuol dire qualcosa rimarrà, quindi quella crescita di solo 0,2 di punto rispetto al primo trimestre del PIL è veramente una crescita modestissima. Poi diciamoci la verità, la fiducia delle imprese è ai massimi per come la rileva l'Istat, la fiducia dei consumatori è ai massimi, per come la rileva l'Istat, allora se dobbiamo dare credito, io credo che sia giusto dare a questi indicatori, dato tutto anche il contesto internazionale, non si vede per quale motivo non dovremmo riprenderci, perché è stato anche scritto. Con queste condizioni, se non ci riprendiamo, non si vede che cosa no, se non ora quando, fare. Potremmo dire, citando un vecchio slogan. Esatto. Ecco, a me ha colpito però, Bella, anche il vostro rapporto, quello che avete diffuso ad agosto, quindi praticamente ancora questo mese, stavo già per dire il mese scorso, ma siamo ancora al 31 d'agosto, su come è cambiata la composizione della spesa. Allora, fermo restando che da quando è scoppiata la crisi la spesa si è ridotta, i consumi si sono ridotti, il potere d'acquisto si è ridotto, è cambiato poi anche all'interno. È impressionante vedere quanta fosse la spesa obbligata. Spesa obbligata vuol dire gli affitti, i consumi obbligati, scusate, e quant'altro, rispetto a quella invece che uno può scegliere. Passata nel 95 era il 36,5% in valore, e adesso è arrivata al 42%. Da quando è scoppiata la crisi era ancora al 39%, appunto è arrivata al 42%, sono 3 punti in più. Questo è un elemento negativo, perché se aumenta la quota di spese obbligate, sostanzialmente diceva lei, affitti, luce, acqua, gas, tutto quello legato all'abitazione oppure le assicurazioni obbligatorie, se cresce in quota questo vuol dire che il consumatore è sostanzialmente più libero, e questo è meno libero. E questo, come dire, rende meno soddisfacente lo stesso atto di consumo. E quindi io che lavoro a fare se quel po' che posso guadagnare in più se ne va comunque in spese che non mi danno una soddisfazione, perché se non sono soggetti a scelta libera da parte mia, ma sono sostanzialmente obbligate. Questo è un aspetto negativo, particolarmente negativo, che riguarda il nostro paese. E qua anche lì le liberalizzazioni, per esempio dei servizi pubblici locali, sarebbe opportuno che procedessero a un ritmo più accelerato rispetto a quello che stiamo vedendo. Eh sì, sarebbe opportuno, e come diceva lei, poi si limita anche la libertà, non è solo che tu hai meno soldi a disposizione per le scelte, per i consumi non obbligati, le spese non obbligate, c'è anche un effetto psicologico, nel senso che, come diceva Bella, se tu poi hai la sensazione che tutti i tuoi sforzi non ti portino, o nonostante i tuoi sforzi si è ridotta la tua possibilità di scegliere l'acquisto, diciamo, sicuramente non aumenti la fiducia verso il futuro. Staremo a vedere il dato del PIL, ha ragione lei, speriamo che non sia proprio lo 0,2 modestissimo, che si arrivi da un prefisso di Milano o un prefisso di altre città, insomma, appunto italiane. Intanto grazie al direttore del Centro Studi di Confcommercio Mariano Bella, da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo come sempre domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.